בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Rieccoci ancora qui, buonasera ad Agostino Spolaore, buonasera dal mio fedele compagno, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Di nuovo insieme anche questa sera. Esattamente, da lunedì al giovedì, con qualche intervallo. Tu sei sempre io qui. Io sono sempre qua, va bene, questo non fa notizia. Non fa notizia. Buonasera da Blu Radio Veneto, dicevo questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara anche questo giovedì sera dalle 21 alle 22.30 circa, cioè giovedì oggi è 21 marzo, siamo assolutamente in diretta, oggi è il primo giorno di primavera oltretutto, quindi insomma ancora di più onoratissimo di essere qui questo giorno. Dicevo, ogni giovedì come di consueto l'appuntamento con il live in questo fascia orario, questo programma che si chiama Blu Time Live. Questa sera abbiamo un cantante bolognese, un basker, posso chiamarti così Marco? Sì, posso chiamarti così, parlami vicino al microfono. Benissimo? Sì. Ti piace come definizione? Sì, mi piace. Tu sei poi un amante di Ferrara, del Basket Festival, ma ne parliamo tra qualche istante. Allora, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, poi le nostre, come dire, nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che salutiamo caramente, e poi ancora che cura quasi tutti i live, eccetto quelli del giovedì, appunto del sottoscritto, ma insomma gli altri li fa tutti quanti lui, e poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre gli sms, se ne volete mandare, ovviamente Marco sarà ben felice di rispondere anche ai vostri, alle vostre domande, ai vostri dubbi, ai vostri curiosità, perché no, anche per un semplice saluto. E allora il numero per gli sms è il 346 23 20 033. E a questo punto io direi di dare veramente il benvenuto a Marco Sbarbati, che ci presenta la sua musica, la sua voglia di cantare, e poi anche hai fatto un pezzo strepitoso, insomma quello me ne parleremo quando sarà il momento. Grazie. Ciao Marco e benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao a tutti, sono contento di essere qua questa sera ospite di Maurizio Agostino. È un ritorno il tuo? Sì, è un ritorno, in realtà sono già venuto una volta con una mia amica che con Spring Groove, sì, che salutiamo. Quello, sì, che è in Australia. È in Australia adesso, un'altra basker. Sì, tanto è un'altra basker. Un'altra basker. E ne abbiamo anche uno in ascolto, sai, di basker comunque, che già ti saluta, sì. Sì, poi ti chiederà informazioni magari per andare al festival. Si chiama Emil, sarà prossimamente nei nostri studi anche lei, non so se la conosci magari, ci sta ascoltando, la salutiamo caramente. Ciao Emil, un abbraccio, un bacione e buon ascolto, sentirai Marco tra poco con me, insomma. Ciao. Ecco. Maurizio. Bene, Marco, ho visto nella tua biografia una cosa molto importante, tu hai una sorella gemella e assieme alla sorella gemella continuavi a sentire i dischi nella casa di tuoi nonni. Che dischi sentivi? Questa è una bella domanda. In realtà, cioè, in casa mia c'è sempre stata la passione per la musica, nel senso che c'erano sempre dischi, però erano solo dischi, stranamente dico questa cosa perché comunque io ho iniziato scrivendo in inglese. Esatto, in realtà sì. A casa mia c'erano dischi di italiani. Sì, ma dischi, mi ricordo una canzone, quella Gloria, cioè queste cose. Quella di Tozzi. Di Tozzi. Sì, di esatto. Tozzi. C'erano dischi, poi comunque italiani. Italiani, dischi vecchi, assolutamente italiani. E perché uno come te si è buttato a 15 anni nella musica inglese, nei testi inglesi? Come è successo? Perché ho iniziato ad ascoltare musica inglese, americana soprattutto, e quindi in quella fase lì in cui crescevo e mi ritrovavo in più nella musica inglese, americana. Quindi da lì hai abbandonato leggermente, sì. Hai lasciato un po' da parte, hai abbandonato la musica italiana. Non esisteva più la parte italiana, proprio, a parte qualche gruppo così, sì. Ma sporadico. Sì, per il resto ho sempre ascoltato musica. Sei sempre di lingua inglese musicalmente parlando. Sì, è la mia, la tua forza. Ho iniziato così, nell'inglese, anche se amo moltissimo l'italiano, anzi ultimamente mi sono anche avvicinato molto all'italiano, però sì, ho iniziato con l'inglese. Hai iniziato con una band? Sì. Con una band importante, la band, c'è poco a fare. Sì, ho iniziato con una band che tra l'altro, cioè nel The senso, Shabbies. Sì, si chiamava, avevamo, io praticamente io ho sempre voluto fare, creare una band quando avevo 14 anni, però nessuno dei miei amici proprio del mio paese, perché io comunque sono originario delle Marche. Delle Marche, e poi ti sei trasferito a Bologna. Sì, un po' di e durante le superiori, anche anzi addirittura le medie, desideravo una band, ma nessuno dei miei amici stretti di quel periodo voleva suonare uno strumento. Di solito la band è difficile perché non c'è mai il batterista. Sì, quello è verissimo, concordo. C'è poco da fare col batterista. Anche con i The Shabbies alla fine la batteria la facevamo con un marchingegno che la riproduceva fintissimo, tra l'altro. Però alle superiori ho conosciuto questi due ragazzi e mi sono proprio trovato, nel senso che avevamo gli stessi gusti. Tra l'altro li saluto, Francesco e Marco. E è partito come un gioco, ci ritrovavamo di pomeriggio per suonare, facendo cover, e poi alla fine abbiamo detto: ma perché non facciamo qualcosa, creiamo una band? E The Shabbies, che è un nome che non è proprio... Mi ricordo una volta il mio amico chiese al chitarrista di Ligabue, disse: ma anche noi abbiamo una band, si chiamano The Shabbies. E lui la prima risposta disse: ma come nome non funziona per niente, perché non rimane proprio in mente. Però a noi piaceva, perché shabby significa, il verbo significa trasandato, un po' consumato, e noi a 15 anni, 16 anni eravamo un po' così. Trasandati? Sì, sì, sì, sì. Sì. La voglia di spaccare il mondo, insomma, in poche parole. Sì, e poi abbiamo finito le superiori, il quinto, allora abbiamo fatto questo Interrail in Spagna, e quindi c'era molto materiale, cioè ci piaceva l'idea di avere delle canzoni nostre, anche perché da noi... tutti i gruppi spesso fanno cover, noi invece volevamo fare dei pezzi nostri. Bravi, bravi, è una cosa positiva, sì, questa. E poi come mai non è proseguita la cosa? Non è proseguita perché io mi sono trasferito a Bologna e poi avevamo questo, come ha detto lui Maurizio, avevamo questo problema enorme con i batteristi. Eh certo, mancava. Ne abbiamo cambiati diversi e non riuscivamo mai a trovare. Bologna ce ne sono tanti di bravi comunque. Sì, però poi io vivevo a Bologna, loro vivevano nelle Marche, cioè io tornavo per fare le prove, ma era... Sì, una cosa un po' staccata. È una merce rara il batterista, è una merce molto rara, è molto ricercata. Sì, ma poi non solo, è difficile trovarlo, ma anche bravo. Esatto, sì. Trovarlo, ok, però... I soliti batteristi bravi già suonano con 3 o 4 band, quindi non hanno tempo per suonare. Sì, appunto. Con la tua, ecco. Fanno i turnisti, insomma, vuoi dire. Sì, sì, nel senso, quelli bravi sono già tutti presi, certo, secondo me. Vogliamo rompere il ghiaccio subito, Marco? Facciamo ascoltare qualcosa di tuo subito? Certo, sì. Dal disco, magari. Dal disco, EP, o vuoi suonare dal vivo? Come vuoi tu, scegli tu. No, vabbè, preferisco suonare dal vivo, visto che sono qua. Così si fa. Comunque è una canzone di questo EP, e è un pezzo che a me piace perché parla del rapporto che abbiamo oggi con il virtuale, con i social network, queste cose qua. Il modo in cui comunichiamo, secondo me, è cambiato molto, ecco. Si chiama Chatting, infatti, questo pezzo. I don't know you so well, I'm surprised by the way you open your heart to mine. Simple words, let them go, I'm sure you'll really feel better. So you broke up with this guy, you don't know why. Summer with no one, it's been a while. Built up memories, let him go, and then you feel better. Better. Should I ask you, wanna meet me there at 9? You're making pasta take so long before you reply. typing hidden by a screen, it seems so easy now, easy, so easy. I wonder if you tell me your thoughts face to face. Maybe it's not that bad as many, many people say. I still love to live my life outside these walls. Oh yeah, I love it. I now you have to go, I just can't write you by. It was nice chatting with you, see you soon or goodbye. Simple words you left on my wall, and then you'll feel better. You feel better. Mi direi quello che vuoi, Maurizio, ma io quando sento queste ballate qui cantate con questa voce, con questa, sembra di vivere veramente in un'altra atmosfera. Marco, tu sei grande in questo, tu fai veramente come dire, far venire i brividi, posso dire, emozioni con le tue canzoni, insomma, veramente mi piace. Grazie. Molto il tuo modo di esporre la tua musica. Secondo me hai una voce molto simile, io l'ho scritto, noi della redazione abbiamo scritto, somiglia molto a James Taylor in questo pezzo, ricorda molto James Taylor, soprattutto quando attacchi la strofa. Io ho notato questo, nel proseguo no, ma quando attacchi la strofa, se ricordi molto chiaramente grande James Taylor come andamento, come cadenza. Non so se sei d'accordo. Non sei il primo che mi dice questa cosa, anzi l'altro giorno entravo in un bar e c'era in un bar dove vado spesso, ho portato il mio CD. Il giorno dopo il proprietario mi fa vedere il disco, il vinile di James Taylor, mi vedi, dice, sai che mi ricordi? Vedi. Quindi non per me l'unico. Comunque è un grande complimento, nel senso che tra James Taylor, magari mi dicono James Blunt, per me James Taylor meglio James Taylor, anche se James Blunt no, nel senso, per carità, per me sì, è un, ha fatto una bella carriera anche lei, anche lui. Però sì, meglio James Taylor, che James Blunt mi sa che deriva da James Taylor, no, su certe cose. James Taylor forever. Esattamente. A proposito di James Taylor, noi l'abbiamo visto l'anno scorso assieme al nostro direttore artistico, una cosa molto bella di James Taylor: dopo il concerto ha aspettato e ha fatto gli autografi per 50 minuti a tutti a quelli che gli hanno chiesto, sono andati cioè una cosa da grande professionista. Non succede spesso che un artista di quel calibro per 50 minuti sia fermo e aspetti che esatto. La gente poi tu, venga... dopo tutti gli anni comunque di carriera, non è un cioè all'inizio magari uno dice sì, devo fare io todo, invece sì. Bravissimo, una cosa meravigliosa, ci ha soddisfatto molto secondo me, e quindi indice che uno quando è grande anche su questo, secondo me. Sono d'accordo, io lo seguo anche su Facebook, l'altro giorno ho visto che ha messo una foto della sua famiglia un compleanno. No, nel senso mi fa piacere questa cosa qui. Ballate, giustamente hai detto Agostino, ballate. Il ballata è il tuo DNA praticamente. Almeno, parliamo di solista, perché con la band facevi un'altra cosa. Sì, con la band facevo tutt'altro, urlavo. Urlavo. Ma non ti ci vedo, sai, però. Sei urlavo, una persona molto sì. Tranquilla. Spesso, infatti, mi lamentavo con i miei amici, dicevo, ragazzi, ma io... Non è normale, no? Faccio 4 canzoni e già sono senza voce. Come faccio? Cioè, se dovessimo fare un concerto, cosa facciamo? Però questa è la mia, in realtà, il mio range. Sì. Poi le ballate, devo dire che comunque nell'EP ho messo parecchie ballate. Sì, esattamente. Però erano le prime canzoni, adesso anche dei pezzi più... più mossi, più movimentati. Sì, perché poi mi sono reso anche, cioè, a parte l'espressione, nel senso che uno non è che scrive una ballata perché dice voglio scrivere una ballata, dipende dall'umore. Però mi sono reso conto anche ai concerti che comunque fare un concerto con tutte ballate, poi la gente un po' si rompe. Si stanca, sì. Quindi ho cercato di tirare fuori la parte di me che è anche più... Rocchettara. Sì, rocchettara, esatto. Ma non ti ci vedo però rocchettaro. No, sì, rocchettaro no, però anche... L'abito non fa mai il monaco, no, ricordati, so... l'abito non fa mai il monaco. Ho delle foto e dei... con se... i capelli lunghi, secondo me. Se andate su MySpace e scrivete The Shabbies... SHABIES, ci sono ancora i pezzi di The Shabbies proprio, wow, urlati. Ma questo quanto tempo fa allora? Ma la pagina è rimasta, però... Sì, no, ma voglio dire, quando è che suonavi? Saranno 5 anni, anche di più. Però ci sono ancora tutti i pezzi. Ma la soddisfazione è che quello, se qualcuno ti può sentire in un'altra veste. Sì. No, non mi riconoscerà. Esatto, però te lo stavo per dire adesso. Io promuovo il Marco di adesso, cioè nel senso il questo, cioè, il Marco di adesso, insomma. Sì, no, il Marco Sbarbati era una fase della mia vita. Senti, io volevo chiederti una cosa che mi sta veramente a cuore chiedertela, perché io lo apprezzo molto dal punto di vista musicale, lui e la sua band, ma che effetto ti ha fatto vincere un premio ed essere premiato da leader dell'Incognito, o Incognito, come si suol dire? Incognito, sì. Incognito, sì. Di Jean-Paul Monique, in arte Bluey. Ma quella sera in cui, cioè, spiegando un po', ho fatto un concorso e nella giuria c'era lui, e quando lui ha preso il microfono ha detto: io vorrei premiare questo ragazzo perché secondo me ha talento, vorrei invitarlo nei suoi studi, nei miei studi a Londra per registrare un brano. Io così sono morto, nel senso che non ci credevo, ma perché non era una, cioè non faceva parte del premio, nel senso c'era un premio a parte, ma questa era una cosa che lui ha detto così, gli è venuta proprio dal cuore, quindi, cioè, mi è piaciuto ancora di più, nel senso ho detto cavolo, allora veramente ha apprezzato la mia musica. Poi sì, l'esperienza comunque a Londra è stata bellissima. Era la prima volta che entravo in un vero studio di registrazione, cioè i musicisti che hanno suonato il brano hanno collaborato con Gianna Nannini, con i Coldplay, quindi Paolo Nutini e Anastasia, ce n'erano, cioè comunque lui ha messo a disposizione tutti questi suoi amici che comunque erano musicisti professionisti, quindi per me è stato bellissimo anche vedere sia come funziona proprio lo studio, ma anche un grande professionista comunque. Sì, totalmente. Quello sì. E poi hai perso i contatti, insomma. Non è che ho perso i contatti, lui ha iniziato a lavorare per l'album di Mario Biondi, quindi per un anno io volevo questo mixer, cioè mi serviva il mix della canzone, lui mi dice, cioè, ogni volta mi diceva sì Marco, però 2 settimane fa l'ho sentito, mi ha scritto, mi ha detto ci siamo, sono contento di continuare a, cioè, di finire questo progetto, perché comunque l'ho iniziato e io volevo, però anche come persona proprio, non solo da un punto di vista professionale, come persona è, secondo me è fantastica. Comunque Ocean è la canzone che ti ha permesso di vincere questo premio, quindi quanto è importante, al di là del premio, insomma, questa canzone per te? Ma tra l'altro posso svelare un piccolo segreto, sì, se si vuole dire. Non so che segreto. Tra le canzoni che abbiamo scelto questa sera da far sentire, non hai messo Ocean. Sì. O perché la fai dal vivo, magari. Sì. Ah, ecco perché. No, perché non me l'hai insegnata qui nel disco, quindi io la sto sentendo in sottofondo, che sarebbe questa. Cioè, volendo si può anche mettere. No, ma hai deciso di farla da live. Le canzoni che preferisco farle live. Nel senso Dicevo, quanto importante è questa canzone? Finora questa è la canzone più importante per me. È un po' strana come canzone, perché non ha il tipico ritornello che entra e poi si ripete, è come un crescendo, ecco. Però mi piace molto perché rappresenta veramente il mio passaggio, diciamo, dall'età giovane all'età, cioè la fase adulta, il cambiamento, ecco. Quando sono andato a Bologna e poi ho iniziato a fare musica, era veramente, mi sono immaginato questo pesciolino che dalla brocca d'acqua finisce nell'oceano. E quindi Ocean, ecco. Tipo Nemo, insomma. Non era ancora, no, forse era uscito. Era sì, uscito. Era uscito. No, avevo visto un film che si chiama L'eleganza del riccio, e c'era questo pesciolino, mi ricordo, quello mi ispirò molto. E musicalmente è un pezzo abbastanza complesso, non è semplice, è un po' fuori degli altri pezzi, è un po' atipico, per quello forse ha vinto, forse anche per quello. Cosa secondo dici? Me sì. È atipico, non è una ballata, una ballad pur sempre positiva, è una ballad tra virgolette, ha un incedere. No, ma io non la considero una ballata. Non è neanche una ballad. Quando ho vinto quel concorso con questa canzone, infatti sentì che magari qualcuno... Senti delle opinioni che non erano proprio felici, perché dicevano ha vinto Marco perché ha fatto la ballata, no? Ha fatto emozionare tutti, allora ha vinto. Però io non la considero una canzone, cioè la ballata è facile, cioè ti prende subito, no? Nel senso l'ascolti e subito ti entra in testa. Invece secondo me questo pezzo per entrarti in testa devi sentirlo, ci mette tante volte e cioè magari esce, cioè ci rimane più a lungo. Sì, poi ha un certo pathos, una certa partecipazione vocale. La ballad è difficile che abbia una partecipazione vocale, è più leggera secondo me. Esatto, no, sono d'accordo. Bene, e se tu sei d'accordo la sentiamo adesso? Ti va? O avevi programmato qualcos'altro da far sentire? No, va bene, facciamo questo. Facciamo questo. Sì, sì. Ocean. Nothing's gained, only wasted. Nothing will hurt you more. I can cry, even if it's not the right time, or I can hold it back. No crime, but in the end you'll have to let go. In my bowl, I haven't been wandering for, I haven't been looking for an ocean. Then a crack. Water pours away. I'm the last to realize how much I need. Not sugar, but salt. Frozen red. I need it. got its warmer here now. It's warmer here now. I really think I'm gonna sleep. È quasi un trip vocalmente questo qua, assolutamente. A me ricordava qualche cosa, anche sai cosa mi ricordava? Qualcosa del padre di Jeff Buckley, Tim Buckley, in alcuni momenti, Sessofronia, qualcosa un po' particolare, Star Sailor, sei un po' andato oltre, c'è un'affinità anche con Paolo Nutini, tu hai citato Paolo Nutini, secondo me c'è una piccola affinità con te musicalmente. In ogni caso questo è un pezzo molto difficile da interpretare, e secondo me per quello ha vinto il premio. E anche vocalmente, se hai dato questa interpretazione che hai dato stasera al premio, per quello hanno detto, dovevano votarti per forza, chiaramente, secondo me. Ed è importante. Cioè, questo pathos che ci hai messo, questo alzare la voce, ma non sforzandola, naturalmente, questo è importante, secondo me. E mi piace moltissimo la spiegazione che hai dato tu, la condivido, e devo dire che un valore aggiunto a questo pezzo, quando ho fatto quel concerto, è che c'era il mio amico Marco dei The Shabbies, che ha suonato l'archetto elettronico. Ecco, vedi. Che l'archetto elettronico io l'ho conosciuto per la prima volta in una canzone di David Bowie, Heroes. E la gente, mi ricordo che dopo aver cantato il pezzo, veniva da noi e ci diceva: ragazzi, con la chitarra, una voce e quello strumento, perché non sapevano, siete riusciti a creare un'atmosfera assurda, cioè quasi come se ci fosse stata un'orchestra invisibile. Esattamente. E quindi un impatto quasi sinfonico, ecco. Credo che ci sia molta affinità tra la chitarra, il cantato e quello strumento che tra l'altro ho messo anche nel disco esatto. Che poi Marco l'ha suonato in modo, sembravano quasi dei gabbiani. Mi ricordo che lui venne da noi e ci disse: fantastico quella cosa all'inizio, sembra quasi di essere veramente vicino all'oceano. Però sì, non è un pezzo che considero, non è una canzoncina, ecco. Dal vivo come la fai? Adesso l'ha fatto acustica, chiaramente, ma la fai acustica lo stesso o cerchi di dare un pizzico di elettricità? Secondo me sì, ci sarebbe anche qualche distorsione, ci andrebbe bene. Ma io ho sempre pensato questa canzone con un'esplosione alla fine, quando vado un'esplosione floydiana. Quando vado in re minore alla fine, lì mi immagino tipo anche una batteria, una distorsione forte. Però al momento una band non ce l'ho. Ma non si sa mai, non si sa. Se dovessi registrarla, comunque aggiungerei questa parte finale. Certo. A qualcuno ricordi Damien Rice? Può essere. Anche quello. Un fan di Damien Rice. Ecco, vedi. Quindi lui è un fan. Perché ti piace Damien Rice? Ma per caso, nel senso che mi ricordo che uscì questo film che si chiama Closer. Guardai la prima scena e c'è subito The Blower's Daughter, che è una canzone di Damien Rice con Natalie Portman proprio primo piano. Mi folgorò proprio quella canzone. Mi presi l'album e iniziai ad ascoltarlo così, sai quelle cose, sì. Fai altre cose in casa, però metti sull'album piano piano. Sei un giorno alla fine sono stato rapito da questo album. Oh. Cioè, mi piacciono tutte le canzoni dalla prima all'ultima, e nonostante cioè, dopo tanti anni ancora lo riascolto e pochissimi album mi danno questo effetto. Questa sensazione. Cioè, lui è bravo, in ogni caso. Ma non mi stanca nemmeno. Cioè, quelle canzoni sono talmente belle, secondo me. Ho anche avuto l'occasione di vederlo a un concerto, sì, a Ferrara, da solo, lui solo con la chitarra, e è stato comunque fantastico. Da questa espressione, da queste sensazioni. Sì. Quindi Damien Rice mi piace moltissimo. Benissimo. Ti fanno i complimenti per la canzone, scrivono canzone stupenda. Grazie mille. E quindi, vedi, non ha vinto a caso questo festival Ocean. Senti, hai parlato di Ferrara, io ho qui la voglia di parlare di questo evento, lo possiamo dire. Certo. Di questo evento, a parte il festival, ma di questa canzone che è nata da un incontro con Lucio Dalla. Sì, è nata da un corso, però non ero a Ferrara. Ah, non eri a Ferrara? Devo specificare. Ero in Piazza Maggiore. Ah, Bologna. Sì, Suonavo lì visto in come basket comunque. Sì, come basket, di sera, dopo cena. E... sì, racconto la storia. Sì, come mai si è sbracciata la tua amica? Tu non sei accorto che era Lucio Dalla? Si è sbracciata? Sì, perché... Io ho letto tutto quando hai detto. Si è sbracciata. Lucio Dalla abitava in via D'Azeglio, che è una via... che... vicina. Sì, che è vicina. E... una sera stavo suonando e con la mia coinquilina, c'erano altri amici, persone... e vedo lei che si sbraccia e non capisco subito, poi mi volto e vedo che c'era Lucio Dalla alla mia sinistra e la mia coinquilina mi diceva fai un pezzo tuo almeno magari lui no, e lui poi quando ho finito viene da me, mi dà la sua email, un bigliettino di carta con scritto la sua email, una cosa molto improvvisata, e subito mi dice Marco complimenti. Marcolino ti chiamava? Sì, mi chiamava Marcolino, però mi dice subito facciamo un disco, facciamo qualcosa, nel senso che era molto gasato, ecco, posso dirlo. Sì, come no. E poi da lì comunque lui mi ha invitato nel suo studio per sentire i miei pezzi, e tra i miei pezzi c'era questa canzone che si chiama I Don't Wanna Start, e che lui piacque moltissimo, e non a caso, cioè, ho avuto questa fortuna, nel senso che lui in quel periodo stava lavorando alla colonna sonora di un film che si chiama Ameriqua, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che uscirà il 16 maggio, un film scritto da Bobby Kennedy, un parente di JF Kennedy. Lui stava facendo la colonna sonora, l'aveva già completata la colonna sonora, era tutta strumentale questa colonna sonora. Però un giorno mi chiama nel suo studio e mi dice vieni qua, ti faccio vedere una cosa, e mi fa vedere per la prima volta la mia canzone, cioè... con il film, nel senso messa dentro, insomma. Sì, e io ovviamente io non sapevo niente di questa cosa, io sapevo che dovevo andare là per vedere una cosa, c'era anche il produttore del film che era già d'accordo su tutto, c'era il regista, quindi immaginate me che vedo il film con la canzone mia sotto, io mi ricordo che esteriormente volevo sembrare super professionale. Sì, serio, no? Compito. Sì, vabbè. Dentro invece urlavo proprio dalla felicità. Però è stato molto gentile, nel senso che lui aveva già quel pezzo per quella canzone, per quel pezzo di film. Sì, però ha messo la mia, quindi comunque io l'ho apprezzato moltissimo. Dove mi porterà, spero... cioè, penso che comunque sia un'occasione bellissima per far arrivare la mia musica a chi magari ancora non... cioè, a tutti quelli che ancora non mi conoscono, sono parecchi. E tra l'altro gli hai fatto anche un video. Sì, ho fatto anche un videoclip, anzi ringrazio Enrico Galli, che è un mio amico che cioè, praticamente ha fatto il video lui per passione e ha fatto un ottimo lavoro. Ci siamo divertiti molto a girare per Bologna, che è la città dove viviamo. Bellissima, una canzone che io ho avuto modo di ascoltare spesso, tantissime volte, ti ringrazio anzi per l'esclusiva, visto che mi è arrivata quasi 2 mesi fa, molto tempo fa, quando me l'hai fatta sentire la prima volta, e sono rimasto veramente colpito. Secondo me questa diventerà la tua canzone importante, più di Ocean. Posso esprimermi in questa maniera, Marco, me lo consenti? Certo. È un mio modesto parere. Ognuno è libero. Sì. Dici. No, ma a me piace molto come pezzo, nel senso, so anche che funziona molto di più rispetto, cioè funziona nel senso che cogliendo le varie opinioni in rete, certo. Amici, questo è un pezzo che è piaciuto a moltissime persone. E il testo di cosa parla? Allora, il testo si chiama I Don't Wanna Start, Non Voglio Iniziare, e ho scritto questo pezzo pensando a tutte quelle volte in cui si ha paura di iniziare a fare una cosa, però può essere una storia, può essere un lavoro, una nuova vita, si ha paura perché già si vede la fine, nel senso non voglio iniziare perché so già che andrà a finire male, oppure devo una nuova vita, tutte le paure, tutte le cose nuove, sì, è vedere un po' troppo in là, cosa sbagliatissima tra l'altro, però sì, in quel periodo sì, mi sentivo così, ecco. Certo. La vogliamo ascoltare nella versione, diciamo, sì, discografica, sì, e poi magari ce la regali in acustico, sì, dopo. Discografica, perché è uno dei pezzi che ho registrato meglio, nel senso professional. Va bene, allora l'ascoltiamo, la canzone si chiama? I Don't Wanna Start. Thank you. Nothing's left here in this bed. No more wire to walk on, 'cause I'm afraid of it now. We've been told that giving up is not a good thing for us. But us is not me, it doesn't fit me, and I don't wanna start. I'm sick of listening, please stop building something that will fall apart. I know your words are full of romance, but I won't change my ways, 'cause I'm sure this time the tortoise will not win the race. You have to know, you have to know, you have to know. This is not me, it doesn't fit me, and I don't wanna start. You say come listening, please stop building something that will fall apart. I know your words are full of romance, but I Blue Time Live. Blue Time. Live. Avete potuto sentire la bellezza di questa canzone. A me piace veramente tantissimo. Ti fa i complimenti anche una tua collega di Roma, che prossimamente sarà qui a Blu Radio Veneto, perché l'ho scoperta da qualche giorno, non tantissimi, 2 o 3 giorni. Si chiama Linda Gambino. E che saluto caramente, anche lei canta in inglese. Ah, sarà... sì. Sì, sì. Ciao Linda, allora. Ciao Linda, ti aspettiamo qui a Brutal Veneto quando sarà il momento. Un abbraccio, un bacione e buon ascolto al proseguo dei programmi di Blu Radio Veneto. Che diciamo subito, Maurizio? Ce l'avremo mezz'ora in più, ne abbiamo strappata questa promessa. Sì, Renato ci ha lasciato mezz'ora in più praticamente. Vabbè. E quindi la trasmissione questa sera non finirà alle 22.30 ma alle 23. E quindi Marco, più tempo personale per cantare, per parlare. Allora, questa canzone ha lasciato il segno, insomma. Allora, questa canzone cioè mi piace anche perché comunque hanno collaborato con me altri musicisti che io ho voluto introdurre nel progetto. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarli, perché non li ringrazio mai, cioè nel senso sono poche le occasioni in cui vado in radio, capito? Quindi vorrei ringraziare Gianni Lucchetti per il basso, per aver suonato il basso, Marco Marini per aver fatto la chitarra, la seconda chitarra, poi il grande maestro Fabio Verdini che ha suonato il pianoforte, è stato gentilissimo, e c'è anche Spring in questo pezzo, certo, che fa dei cori in secondo ritorno. Grande Spring, sì. Spero di riaverla qui in studio perché mi è piaciuta tantissimo. Quando, non so se te lo ricordi, quando stava provando Marco, che eravamo in sala di là, sai che stavamo provando prima della trasmissione, ci ha cantato Alleluia. Ah, sì. E siamo stati io e Maurizio, ci siamo rimasti veramente, quella di Leonard Cohen, sì. E ci siamo rimasti veramente allibiti, però poi non ha voluto cantarsela dal vivo. Magari non ha voluto, cioè, l'ha fatta per noi e basta. L'ha fatta per noi in quel momento. Una cosa intima. Intima, sì. Ritornando un secondo a Lucio Dalla, io ho letto, che tu me lo puoi confermare, dei famosi scherzi di Lucio Dalla. Quel giorno lui si è praticamente è diventato la segretaria sua, ha praticamente imitato la voce della segretaria perché non voleva essere disturbato. È così. Sì, mi ricordo questa cosa che lui ha fatto parecchio ridere. Ha detto anche Morandi il discorso degli scherzi di Dalla. Vai. Sì, mi ha fatto parecchio ridere. Mi ricordo che un giorno stavamo parlando, c'erano anche degli altri signori, perché comunque lì da Lucio molti musicisti andavano e venivano. C'era una specie di... Sì, ogni volta trovavo una band diversa pure. E mi ricordo che un giorno stavamo facendo una riunione e gli arrivò una chiamata e lui rispose facendo finta di essere la segretaria. Disse proprio: pronto, chi parla? Lucio è un po' impegnato, tra un po' glielo passo. E poi cambiò voce e tornò: ciao, chi è che parla? Questa cosa mi fece molto ridere. Era così, non me lo aspettavo questo coso, questo cambio di voce. Però cioè, è una cosa divertente. Sì, certo. Sì. Una cosa bella. 21.43, Blu Radio Veneto, Agostino Spolaore, Maurizio Calzavara, ma soprattutto Marco Sbarbati che ci sta regalando la sua musica in questo EP che è uscito molto tempo fa ormai, vero Marco? Un anno e mezzo, due? Due anni. È il momento di fare quello nuovo, insomma. È il momento di fare un album. Sì. Basta EP, il mio goal, come si dice adesso. E ci hai accennato che quindi cambierai un po' strada, insomma. Ma... cioè in realtà non cambierò strada, nel senso farò, cioè finora, cioè, spesso fare musica dipende anche dalle possibilità che si ha, nel senso uno se ha solo una chitarra e la voce, cioè regista, chitarra e voce, se avessi altre cose potrei comunque ampliare, cioè è sempre una sfida, nel senso rimanere e fare sempre le stesse cose è una cosa secondo me non brutta, però non, cioè, non vorrei... Niente ripetitiva. Esatto, non vorrei avere una carriera, semmai fosse avrò una carriera, e non vorrei ripetermi comunque sempre, comunque 20 anni fare sempre la stessa, cantare sempre la stessa canzone, secondo me è un po' così noioso. Mm-hmm. Cioè, ti saluta una persona a te molto cara, immagina chi può essere. Si chiama Antonella. Vabbè. Bingo! Ciao Antonella. Antonella è una grande, nel senso che veramente devo ringraziarla in diretta perché... cioè un giorno mi arriva una chiamata, mi fa: salve Marco, sono un giornalista del Resto del Carlino, devo fare un articolo su di te, me l'ha detto Antonella. Cioè lei mi trova tutte le... veramente, come se fosse la mia... non so, quella che cura le public relations. No, è molto gentile. Lei che mi ha dato la canzone subito appena ce l'avevo in mano. Sì. La ringrazio veramente. Dice che è commossa ogni volta che lo ascolto, ho i brividi, dice. ciao Tissi. Va bene, allora Marco, ci fai qualcosa dal vivo adesso? Sì, faccio qualcosa di un po' più movimentato. Tu? Oppure no, The Wanna Start la faccio dopo. Abbiamo sentito. Sì, sì, facciamo alla fine, magari. Facciamo alla fine. Di movimentato cosa intendi, Marco? Qualcosa di più. Più rocchettaro, dai. Veloce, dai. Sì. Più mosso. Questo è un pezzo che si chiama Restart, ricominciare da capo, come quando si riavvia il computer. You say that you're falling apart, you're making a new start. You say that you'll run away, it's too much, you can't give it up. I say you'll be laughing most of the time, you'll be rocking your world, and I swear to God I'll play for the stars, and I won't play for more, 'cause you'll never fall apart, 'cause you yeah, you're right. Sometimes we're so wrong. You want me in a way, but I don't know what to do, 'cause I walk from the outside, but I don't care about it tonight. Yeah. We'll make the lines, those lines, so you'll never fall apart, you'll never fall apart, 'cause you really want to restart. I know you're searching for fire, I'm sure that you're searching for fire in everyone, wherever you go. I know you're searching for a fire, you're begging for a fire. I know you're searching for a fire, but I don't care about it tonight. No, no, no, we'll make up a world by breaking the lines, 'cause you'll never fall, you'll never fall apart, 'cause you really want to restart. I know you're searching for a fire. I'm sure that you're searching for a fire. giocare col falsetto è molto difficile. Io amo particolarmente la gente come Marco che gioca, che introduce il falsetto. Ed è molto arduo e a me piace particolarmente. Complimenti, col falsetto si va sempre avanti. È difficile il falsetto. Come mai questo gioco? In ogni caso dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che è l'impatto vocale del... Sì, puoi bere quando vuoi. L'impatto vocale di Marco che è la chiave di volta del discorso musicale, secondo me. La voce che trascina lo strumento e non lo strumento che trascina la voce. Sì, questa è una cosa verissima, ma semplicemente perché io non nasco come chitarrista, nel senso che... Nasci come vocalist. Cioè, esatto, io avevo voglia di cantare e di scrivere e mi serviva un appoggio. Un appoggio. Quindi è normale che quello che magari io con la chitarra non riesco a fare lo compenso con la voce. E poi, sì, anche un discorso di sperimentare, nel senso che sì. 3 anni fa io non cantavo così, nel senso che io mi diverto un sacco anche queste cose, vocalizzi, cioè sono cose di man mano, live dopo live, concerto dopo concerto, io mi piace proprio sperimentare cose nuove, fare delle cose a volte anche un po' spiazzanti. Esatto, hai detto una cosa giusta, spiazzanti. Perché sennò mi annoierei proprio. Ecco, il discorso della noia sparisce. Un pezzo come questo, che può avere un'intelaiatura semplice, chitarra e voce, invece poi si sviluppa in un'intelaiatura molto complessa, complicata nel senso positivo, ampia, e libertà totale, quello voglio dire. Sì, questa è una cosa che mi piace molto, però non è solo, cioè è dovuta anche al fatto di non saper suonare la chitarra come Jimi Hendrix. Sì, vabbè. Cioè, nel senso... giorno mi piacerebbe anche poter magari collaborare con qualche chitarrista che introducesse qualcosa anche di magari più... Perché magari un chitarrista mi ascolta e dice sì, mi piace la sua voce, mi piace come canta e tutto, però da un punto di vista di chitarra magari potrebbe essere più interessante, cioè ne sono consapevole. Ho capito. Al momento ho questo, nel senso... Salutiamo anche il suo collaboratore. Certo. Grande Stefano. Esatto, che oltre ad essere autista è anche collaboratore, road manager. Ma ho conosciuto Stefano in piazza io. Ah, in piazza l'hai conosciuto? Cioè, lui aveva conosciuto Spring in piazza, mentre suonava in piazza, quindi lui era amico con Spring. Poi quando io ho iniziato a suonare anche io in strada, in piazza, ho conosciuto anche Stefano. Ah, perfetto. E da lì siamo... Quindi la piazza, piazza grande, sì, come sì, diceva Lucio, è fondamentale. Sì, sì, la maggior parte delle mie amicizie sono nate in piazza. Maurizio, dagli pure il microfono. Ah, sì, sì. Puoi dire qualcosina anche a te. Sì, te sì, un saluto a tutti. Ciao Stefano. Guardate, vi dico una cosa breve. Per me conoscere Marco, prima Spring e poi Marco, è stato comunque anche una scoperta di ambienti che davo per persi. Io, bolognese, non mi fermavo mai in piazza. Per caso mi sono fermato in piazza, sorpreso da voci come quella di Spring e poi quella di Marco. E dopo ho cominciato un'abitudine nel dire vado a fare un giro in piazza a sentire se c'è della buona musica. Abitudini ormai un po' fuori uso. Sì, però invece... esatto, hai detto una cosa giusta. In Italia specialmente fuori uso. Sì. Negli altri paesi invece non succede questo. La gente suona e la gente si ferma a sentire chi suona. Vero. In Italia abbiamo perso questo. Come mai? Non lo so, è una questione solo di tipo... di abitudine. Di abitudine, una sorta sì. di neocultura. A Bologna a volte abbiamo anche problemi a poter fare le esibizioni pubbliche perché le autorità non ufficialmente autorizzano, quindi c'è sono dei vincoli, dei divieti. C'è bisogno un po' di sciogliere questi nodi e grazie anche a questa trasmissione è possibile dare qualche impulso in più. Certo. Grazie. Ascoltiamo un po' di Spring. Si è parlato tanto di lei questa sera. Solo un pezzettino. Sick, poor, hungry, out my window everywhere. A government wanting to rule the world turns its back here. There's no money to be made helping our own, so they're treated like they're disposable. We got a ribbon for the troops, one for AIDS and all the cancers. We show support, we got no good answers. We're killing our young, fueling a war that doesn't exist. There's a mess in our nest, being dismissed. And I'm thinking, hey, we'll steps forward, fall 40 back. We lose our faith by putting a sense and then we fall off track. Why there's a million names to call the divine. Far less leaders for the love of power still battles the power of love. È davvero una grande artista, tu ce l'hai proprio nel cuore perché è un'amicizia bellissima con lei, insomma. Tra l'altro questo è uno dei miei pezzi preferiti. Ah, ecco, l'ho fatto a caso, sinceramente non lo sapevo. Lo stava cantando. Sì, ho visto. Però sei allontanato dal microfono. Non avevo voluto. Non volevo Sì, no, dicevo, è una bellissima amicizia con lei, insomma. Lei è una cantante che gira il mondo. Sì, una bellissima amicizia e lo dico senza problemi, cioè... Se sono qui ora è soprattutto grazie a Spring, nel senso che lei comunque è stata la persona nella mia vita che più mi ha spinto a fare questa cosa. Cioè a dire Marco sei bravo, vai avanti, porta avanti questa cosa. È stata proprio la persona che... Perché comunque ci capiamo molto io e lei, perché facciamo la stessa cosa. Cioè spesso... cioè non so come... Cioè io spesso quando mi relaziono ad altre persone che magari fanno altri lavori, fanno altre cose, comunque a volte è difficile far capire, sono in strada. Cioè uno magari mi guarda e mi dice ma che fai? Una volta mi ha detto ma che chiedi l'elemosina? Cioè è difficile far capire, cioè io lo do per scontato, però è normale che una persona che non sa cosa faccio, cioè non, se gli dico... sono in strada, mi dice ah ok, nel senso, non mi prende molto sul serio. Mm-hmm. E invece con lei in questo proprio ci capiamo. In strada. Sì, in strada. Well, when you done me, you bet I felt it. I tried to get you, but you're so hot that I melted. Te la ricordi questa? Era il 2010, 19 settembre 2010. Come passa il tempo? Eri in strada con Spring Groove. Eravate sì, a Ferrara. Sì, ero a Ferrara con Spring. Avevo una maglietta rossa. Avevo ancora la chitarra, la Martin. Quella bella che ho perso, che, sì. Che hai perso? Che sì, perso quello... te l'hanno... È stata una perdita... Diciamo perdita barra rubata. Esatto. Ecco. Ma toglimi una curiosità, insomma, mi viene spontaneo chiedere questa domanda. Cosa vuol dire per te, per Spring e per tutti gli artisti essere un busker? Dentro di te, cosa provi, insomma? Che soddisfazioni hai cantare in mezzo alla gente non avendo... tante persone che ti stanno ascoltando non avendo un palco, ma sei proprio in mezzo alla strada. Un po' anche Chiana. Lei addirittura sì, che canta vicino ai semafori a un incrocio, a Honolulu canta, cioè è pazzesca anche Chiana che è venuta qui e tornerà, lo sai che tornerà Chiana? Ah sì? Sì, torna, io la vedo sempre Chiana. Torna i primi di giugno, tornerà qui a Blu Radio Veneto. Ah ok. Sì grande. Sì, grande grande sì. Io penso che la cosa bella del suonare in strada, dell'essere un busker, sia il contatto diretto con le persone. Cioè nel senso oggi tutto è mediato, televisione, radio, computer, internet. Invece quando anche il concerto sembra una cavolata, però c'è sempre quella linea che separa il palco dalle persone. Invece suonare in strada, cioè nessuno viene e paga per sentire te, non ha comprato esatto. Un biglietto. Nel senso che uno passa in strada, ti sente e dice mi piace, non mi piace, mi fermo. Chi non vuole sentire se ne va. Quindi tu sai che comunque quelle persone sono lì perché tu in qualche modo le hai catturate. E quindi si crea questa connessione molto bella tra te e loro. È una cosa unica che nemmeno... Cioè nei locali quando suoni non c'è mai una cosa così... Perché magari uno viene nel locale, si sente tre canzoni e poi si stanca, però magari rimane per sei canzoni, non ce l'hai più. Invece in strada quando uno si stanca se ne va, non è che sto lì a vederti. Quindi la cosa bella è poi la libertà in assoluto, comunque di suonare, cioè vado in piazza, mi porto la chitarra, suono, senza una libertà che è difficile ritrovare magari in altri ambienti. E da cantautore atipico in America li hanno sempre fatto, gli altri paesi l'hanno sempre fatto, in Italia grazie a Ferrara sta cominciando, sì, ci vuole Ferrara. Tempo, come ha detto giustamente Stefano, non c'è la mentalità. Però ho notato che negli ultimi, cioè da quando Spring ha iniziato a suonare in piazza e poi io l'ho seguita, adesso parte va bene, magari gli indiani o Beppe Maniglia a Bologna che sì. Sta lì da 20 anni che suona, che suona. E, però ho notato che la gente inizia da, cioè gli artisti sono aumentati. Beh, le leggi non sono aumentate, al contrario. Per leggi. Comunque la legge, il regolamento finora, cioè previsto a Bologna, è, cioè non si può usare l'amplificazione. Si può suonare solo però senza amplificazione. Ovviamente io suonando senza amplificazione, cioè lo faccio, però non è la stessa cosa, nel senso che mi sgolo, la gente nemmeno mi sente. Ci ho provato una volta. Però ho visto un aumento di artisti, di buskers in Piazza Maggiore, questo a Bologna. Sì, più giro, ecco. Però comunque il punto, diciamo, di riferimento è quello di Ferrara, insomma, come basso. Sì, Ferrara è il c'era credo sia in Toscana, uno... se non mi ricordo. Sì, però quello di Ferrara è prende finanziamenti, credo, forse proprio dallo Stato per la sua grandezza. Nel senso, è uno dei festival più grandi in Europa. E io spettacolare. Cioè, quando andavo a sentire Spring volevo partecipare, poi ho iniziato a partecipare pure io. Quest'anno ci sei di nuovo? Quest'anno no. Non ci sei? No, quest'anno dopo 4 anni. Credo. Sì. Mi è dispiaciuto l'anno scorso perché c'è stato il terremoto, il numero dei basker è stato diminuito, c'era quell'aria un po' così, non c'era... Cioè, una cosa bruttissima comunque è successa. Forse l'anno prossimo, quest'anno no, perché ho trovato un altro festival che vorrei comunque provare in Germania. Ah, quindi vai all'estero. Vai all'estero. Sì, vado con Spring, tra l'altro. Ah, ecco, quindi non vedo neanche lei. È una novità, nel senso, bisogna cambiare. Bisogna cambiare, giustamente, bisogna provare. Anche per vedere com'è l'approccio all'estero con... Ma penso in Germania sicuramente sarà un approccio positivo, chiaramente, perché... Ritornando al discorso di prima, sono più abituati a sentire la gente che suona. Sì. Ma quello lo noto anche in Piazza Maggiore o in strada. Spesso le persone che vengono a parlarmi sono americani, appunto, inglesi, scozzesi. Bisogna abituare anche gli italiani, ci vuole pazienza. Si stanno abituando. Si stanno abituando. Beh, sta crescendo sempre, di anche più. Anche noi facciamo un picco. C'è anche un basket. Un utilizzo di abituare la gente. Facendo suonare te, cerchiamo di abituare la gente a sentire qualcosa di diverso. Adesso, nel nostro piccolo, adesso che li abbiamo abituati, e adesso suoniamo ancora. Allora. Cosa ci fai sentire? Guarda, che ti avviso che Antonella è in tilt. È in tilt? Sì, l'ha detto lei. Ha scritto qui questa, perché ha sentito Spring, allora si è sciolto. No, più che altro è in tilt proprio. Allora, cosa ci fai sentire adesso? Ma farei. Parla vicino al microfono. Scusate. Farei questo pezzo che si chiama Into the Unknown, che è un pezzo che ho scritto quando mi sono trasferito a Bologna, quindi era la mia prima settimana a Bologna, tutto nuovo, quindi Into the Unknown, nel senso nell'ignoto. Nell'ignoto, sì. Ok. Start a new life, no signals from above. Fighting with a new reality, despite what people want me to be. Want me to be. No lights in this room, or pillowcase on the bed. It's not mine yet, not yet. It will be mine, I guess. I'm shaving my face slowly. My past does not come out just yet. I'm here, I'm not afraid. I'm here, so good in this way. And I wish I could be strong sometimes, even when I don't know how to play these chords of mine. I trust in your game as much as I can do, but I don't know if you trust in me since I moved. Sunday morning, oh, good day to love and rest. Oh, I'd like to have you on my chest. Now you're right, shouldn't let the game go on a burn. I will draw my perfect world. That's why we triumph, you're right. And you, the sun will make you won't be crazy, lazy, full and hazy, shocked and blind. I'm walking into the unknown. Windows open, outside is full of men, got big plans. I wish I had my friends too. Not I miss what I have, I miss what I don't have. And I wish I could be strong sometimes, even when I don't know how to play these chords of mine. I trust in your game as much as I can do, but I don't know if you trust in me since I moved. Sunday morning, a good day to love and rest. Oh, I'd like to have you on my chest. Still not tonight, you're right, shouldn't let the king go on a bird. I will draw my perfect will. That's why we triumph by your right. And you, the sun will make you, will be crazy, lazy, full and hazy, shocked and blind. I'm walking into the unknown. I'm walking into the unknown. I'm walking into. Till not tonight, you're right, shouldn't let the game go on, but I will draw my perfect world. That's why we try and find any. The sun will make you, will be crazy, lazy, full and hazy, shocked and blind. But I'm walking into the unknown by now. Fino all'ultimo secondo, perché la nota lunga. Nella recensione abbiamo scritto che Talking About the Revolution di Tracy Chapman all'inizio mi ricordava molto il tuo andare. Poi chiaramente il discorso cambia, diventi, ritorni a essere te assolutamente, e sei te lo stesso. Però l'inizio, questo ritornello mi ricordava, scusami, mi sono permesso di citare Tracy Chapman. Questa cosa mi è stata detta diverse volte. No, non è vero, me l'hanno detto. Cioè, almeno due persone mi hanno detto che l'inizio assomiglia molto a Tracy Chapman. Ma capisco anche perché comunque quando ho scritto questa canzone e ho iniziato a suonare in strada, Talking About Revolution era un pezzo che io facevo sempre. Proprio mi piaceva, adesso mi ha stancato perché comunque chiaramente sì. Però ti è rimasto un qualcosa, certo, dentro. Ovviamente anche inconsciamente mi è rimasto, esatto. Ma è normale. Sì. Non vengo qui a dire io faccio cose, cioè, ovvio che tutto è già stato fatto e tutto viene rimodificato, certo. E cioè, ma quando il pezzo è bello non è dispregiativo, no, ma infatti citarlo è bello, perché se è bello basta. Non la prendo come un'offesa. Crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Basta, abbiamo detto ti è stancato, quindi basta. Mi è stancato cantarla, ma non ascoltarla. A proposito di ispirazioni, tra virgolette, insomma, cosa ascolti quando tu sei a casa che non hai voglia di prenderti in mano la chitarra e ti metti lì, inserisci le tue canzoni, le tue musiche, insomma, sul il mio iPod, si può dire? Il lettore MP3. Una volta non c'era il lettore MP3, c'era il registratore, il giradischi. Cosa c'è, ti piace? iPod, cosa ti piace ascoltare? Allora, ultimamente in questi giorni sto ascoltando la colonna sonora di un film che a me è piaciuto moltissimo, soprattutto per la colonna sonora, che si chiama Noi siamo infinito. Però il titolo in inglese è completamente diverso. Non ho mai capito perché c'è sempre questo cambio di titolo dall'inglese all'italiano. E è un film ambientato in America durante gli anni 70. Cioè nella colonna sonora ci sono tutti i grandi della musica, The Smith, David Bowie. Quindi ultimamente sto ascoltando quella colonna sonora lì. E ci sono veramente tantissimi artisti che a me piacciono tanto. Sì. Hai citato Bowie, hai citato gli Smith. Sì, poi ci sono. Ne sono diversi, adesso non mi ricordo tutti. Perché Bowie l'ho già citato precedentemente? Perché gli Smith, Johnny Marr e Morrissey? Tony Maffa ha fatto un disco bellissimo. Smith, ho comprato da pochissimo una raccolta enorme con due CD, 40 canzoni. E tutto il mondo degli Smith. Sì. La chitarra di Johnny Marr è indifferente. Cioè, si sente immediatamente che quello è Johnny Marr. C'è niente da fare. Secondo me ha tracciato un solco profondo. Bravissimo, straordinario, Johnny Marr. Concordo, nel senso che Smith sono gli Smith. Esatto, c'è poco da fare. C'è quelli poco sono da dire. Sì, sì, c'è poco da dire. Quello è il marchio è quello. Il target è quello. Tanti altri hanno cercato di imitarli, ma l'originale è sempre quello che conta. Imitarli, nel senso, avvicinarsi, ecco, possiamo dire questo. Quindi con un disco prendi tante fave, insomma, con un piccione prendi tante fave. Sì, giusto? In questo caso sì. A me piacciono anche le colonne sonore dei film, tipo anche un'altra colonna mi piace tantissimo, super anni 80, è quella di Donnie Darko. Ci sono dei pezzi strabelli, secondo me, che magari se vai a prendere, magari la band ha fatto magari solo quel pezzo, è diventata famosa, però cioè, mi piacciono anche le colonne sonore dei film belli. Beh, spesso al cinema allora. Sì, sì, io ho fatto 3 anni al Dams Cinema. Ah, vedi. Quindi so che l'altro giorno volevo andare al concerto dei Mumford & Sons. Eh sì, dove era? A Firenze. A Firenze. Mm. Ticket sold out. Biglietto non c'erano. Sì, loro mi piacciono molto. Ah sì, questo è un pezzo. Tra l'altro, questa è una cover. Eh sì, questa è una cover, esatto, sì. È una grande cover, possiamo dire. Mad World. Quasi più famosa. Sì, dell'originale. A me piace di più dell'originale. È una bella, lui ha una bella voce. Una mi bella ricorda voce. Un po' quando ho sentito questa canzone per la prima volta, ho pensato a quello dei REM. Ah. Degli REM. Perché secondo me hanno delle voci qualche vicinanza a Michael Stipe. Esatto, sì. Michael Stipe. Questo ha fatto praticamente, ha preso la pensione con questo pezzo, veramente si è sistemato al 100%. Al di là che non è 2000, suo 2006 questo al di là che non è suo, però si è sistemato in ogni caso. E siamo a due, te ne concediamo un altro, via. Un altro pezzo? No, un altro disco che ti potrebbe che non può mancare nella tua collezione. Ma un disco che mi piace tantissimo, The Rise and the Fall of Ziggy Ziggy. Sì, The Rise and the Fall of Ziggy Stardust di David Bowie. Perché ti piace l'inizio del il suo inizio praticamente, dopo subito spesso. Ma quello è un CD che a me piace tanto. No, il motivo non lo so, mi piace, cioè me lo ascolto proprio tutto dalla prima all'ultima canzone, dalla prima all'ultima traccia, mi piace tantissimo. Sono dei pezzi favolosi secondo me in quel disco. Dobbiamo anche sottolineare che aveva una band straordinaria dietro, Bellissimo, certo. Straordinaria. E cosa ne pensi dell'ultimo disco che ha fatto? Ma con questa copertina, qualcuno dice orribile, qualcuno dice ma bellissima. Dico la verità, non l'ho nemmeno ascoltato tutto questo disco, però sono sempre per le cose, cioè no, le cose nuove di Bowie, non lo so. Bisogna prendere con calma, assaporarle sì, con calma. Sì, nel senso che sono legato alle cose al grande passato. Sì, forse sbaglio, non lo so. No. Ecco, Agostino ha ripreso il classico. Quella più famosa. Eh sì, uno dei classici suoi. Va bene, sono le 22:13, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo che abbiamo sempre qui con molto piacere e molta gioia Marco Sbarbati, la sua musica, la sua voce, la sua splendida chitarra, che ci sta facendo una grande, veramente una grande compagnia. C'è Agostino, c'è il sottoscritto, c'è Maurizio, ma soprattutto c'è lui. Ci abbiamo anche un suo amico, Stefano, insomma, che tra l'altro collabora anche. Road manager, posso dire, che è road manager praticamente. E io nonché autista, aggiusta tutto anche. Aggiusta tutto. Lui aggiusta tutto. Perfetto. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, quello in studio, se ci volete chiamare o mandare anche qualche messaggio, perché no, 049 875 6423, mentre per i messaggi, come dicevo, è il 346 23 20 033. Se volete risparmiare, come dico sempre io, i soldi dell'SMS, potete tranquillamente scriverci anche sulla pagina di Facebook o quello della radio, cioè Blu Radio Veneto, o un altro ancora della radio, Blu Radio Veneto Rock Wave, oppure ancora anche nella pagina del sottoscritto, cioè Agostino Spolaore, oppure anche nella pagina tua, insomma, che magari andrò a curiosare adesso, che ho già curiosato sinceramente. Io sono ovunque. Sì, tu sei anche sopra in cima a un monte dove c'è un bellissimo lago davanti a te. Ah, dov'è quel posto lì? Quello è una tanta roba. Tanta roba. No, ma sei tu poi di spalle? Sì, sono io, molto Into the Wild quella foto. Esatto. Molto bello quel film, tra l'altro. Anche la colonna sonora. Anche la colonna sonora. Lì ero in Sudafrica. Sono stato un grande viaggio in Sudafrica a dicembre. Sono stato quasi un mese. E sì, sono volato a Johannesburg, ho affittato una macchina e ho guidato ben 5.000 km, ho fatto fino a Cape Town, giù. È stato bravo, coraggioso, eh? È stata un'esperienza bellissima. Tra l'altro Stefano c'era stato prima di me, lui mi ha parlato di questo viaggio e io rimasi colpito. Cioè, nel senso, l'ho fatto anche perché comunque lui mi aveva raccontato delle cose strabelle. Potresti fare una canzone su questo viaggio? Ma ho scritto già delle cose. Hai scritto qualcosa? Sì, sì, ho annotato. Ti sei ispirato qualcosa? Sì, sì, sì, certo. Bene, ci fai qualcosa dal vivo adesso? Certo, facciamo... Puoi fare... Se ti chiedessi di fare Alleluia? Una cover? Alleluia. Alleluia. Ho scelto proprio una cover particolare. Una cover. Volete la faccio? Scegli tu, Marco, quello che vuoi tu. La accorcio un po'. Ecco, sì, perché è un po' lunghetta. Perché... Se no, vedi tu, fai quello che vuoi, quello che ti piace fare. Well, I heard it was a secret code that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Well, your faith was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips you drew the alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Maybe I've been here before. I've seen this room and I walk this floor, you know. I used to live alone before I knew you. For I remember when I moved in you and a holy dove was moving too. And every breath he drew was hallelujah. Alleluia, alleluia, alleluia. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear here at night. It's not someone who sees the light. It's a cold and it's a broken heart. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ora capite perché lo voglio qui, Marco, quando canta certe canzoni, quando si fanno certe canzoni, meglio dire, insomma, veramente sono le canzoni che ti toccano il cuore, queste. Alleluia, poi, insomma. Questa è una canzone che comunque è bellissima, non c'è niente da dire, quindi quando la canto mi... Ti emozioni? Sì, certo, cioè mi arriva. Nel senso... È una delle canzoni che ama di più anche Maurizio. Sì, perché come dobbiamo sottolineare una cosa che l'ha scritta Leonard Cohen, ma come ha toccato le corde Jeff Buckley, nessun altro è riuscito a farlo. Cioè Leonard Cohen è un grandissimo artista, un sommo artista, un nome tutelare, ma Jeff Buckley le ha dato un in più, l'ha ricostruita, è diventata sua, e questa è la grandezza di uno come Jeff Buckley. Sì, la sua voce è enorme, bellissima, con una chitarra acustica faceva qualcosa di straordinario. Aveva una chitarra acustica effettata, ma aveva una chitarra acustica tutto sommato, e però è diventato un pezzo straordinario, penso che è stato conosciuto da tutti. Sì. Pezzo difficile, complesso, corposo, però è diventato universale, quello importante. Il messaggio musicale è anche questo, la musica dà questo messaggio. No, penso che comunque lui abbia fatto un lavoro enorme. Sì. Sia di, cioè, proprio a livello musicale, comunque si suona la chitarra, però Ma l'anima è l'anima, quello. Sì, cioè nel senso anche l'espressione, sì, no? Quello che riesce a comunicare, che arriva lì, proprio la magia, secondo me, di quella canzone. Quando l'ascolti, cioè, quando avevo 16 anni, io questa canzone la sentivo tutti i giorni, proprio era quasi uno stato mentale a volte. È la magia, no? Di un disco come Grace, che rimane unico disco, però rimane un disco là. Rimane sospeso, è lontano, ma vicino, nel senso è grandioso, è questo voglio dire. Benissimo. Secondo me. Ok. Bene. Ci ha lasciato un po' così, un po' interdetti, nel senso siamo quando emozionati. Quando sento un pezzo simile, cioè Marco ne ha dato una distribuzione incredibile, proprio partiva da dentro quel disco, è quello il motivo. Senti Marco, vuoi riposarti un pochino? Facciamo ascoltare qualcosa dal disco, così ti riposi. Va oppure benissimo. Vuoi suonare quella tua? No, facciamo sentire qualcosa dal cosa disco. Cosa scegli? Che traccia vuoi fare? Vuoi Chapter Closed? Ah, ok, per ritornare ai The Shabbies. Questo... ritornare alla rock band. Sì, nel senso, dovevo fare questo EP, ho detto, se devo venderlo a Ferrara... Mm. 5 euro minimo, ci devono essere 5 canzoni, nel senso sarebbe ingiusto. Un euro a canzone? Sì, più o meno. E 10 mi sembrava esagerato, perché 10 euro per un CD con 5 canzoni. Quindi mi mancava un pezzo, ho detto, ma sì, non è dei vecchi tempi, ci ho messo questa canzone che si chiama Chapter Closed, che ho scritto pensando ad una storia di un mio amico che era finita, non la mia, ma quella di un mio amico, e capitolo chiuso, nel senso il titolo già dice parecchio. Ma l'hai rivisitata poi o questa era proprio la versione originale? Questa è la versione dei The Shabbies, proprio come quella che facevamo live. Ah, proprio, quindi così com'è? Sì. E l'ascoltiamo. Thank you. said goodbye. I can't even, I can't remember what it's like. You used me like a doll in your hand. When I started, when I started to you didn't really care, so I run now and then. All those great years we were wasting. Sometimes I see you sharing the place where I met you. How can I get rid of your face? You're acting like we Live! Sono le 22.30, in teoria dovrebbe essere finito qui. Invece abbiamo strappato sì, 30 minuti in più. Mezz'oretta a Renato. Quindi. Così abbiamo brividi per altri 30 minuti, insomma, emozioni con la musica di Marco Sbarbati. E, cosa volevo dire io? Avevo in mente una cosa da chiederti, Marco, ma non mi ricordo più. È fuggita. Vabbè, insomma, comunque, i tuoi progetti futuri, a parte il disco che stai pensando di fare, insomma, prossimi, c'hai qualche concerto, qualcosa... Allora, il concerto futuri a Brescia il 20 aprile. Quindi fra un mesetto. Sì, circa. Per adesso è solo quello. No, o magari ti capita di prendere la chitarra e andare a suonare in Piazza Maggiore. In realtà mi avevano invitato a suonare qui a Padova, però il 31 marzo, che è Pasqua. Esatto. E siccome... non viene nessuno. Eh sì, anche per quello. Poi io non ci pensavo nemmeno che era Pasqua. Nel senso, comunque avevo già preso il biglietto per tornare nelle Marche a vedere anche la mia famiglia ogni tanto. Ogni tanto. Bisogna ritornare. Allora, niente. Però mi faranno sapere. Comunque, qui a Padova. Mm. Eh beh, faccelo sapere, sì, che sì, veniamo sì, anche certo. Noi a vederti. Insomma. Certo. Ah, sì. Magari, scusa Maurizio, magari anche con Spring o no? No. Spring è in Australia adesso, sì, quindi tornerà. Dai canguri e cose varie. No, ma non torna, voglio dire, per il tuo concerto. No, torna fine di aprile. Beh, magari se lo sposta. Il prossimo. Ritornando al disco a capitolo chiuso, musicalmente non può essere capitolo chiuso, però non è proprio un capitolo chiuso. Tu mi dicevi microfono spento, questo è il pezzo meno duro, ce ne sono di più, sì, tosti, sì, sì, decisamente. Questo è molto oscuro, molto, non dico dark, ma è decisamente oscuro, volutamente oscuro, un arrangiamento non totalmente duro, ma già ci poteva capire che cos'erano gli altri tre o quattro pezzi che sì. Avevi scritto assieme alla band. Ma il problema anche di questi pezzi era, della mia band, della nostra band, era il dover, eravamo giovani, dovevamo trovare il nostro sound. Quindi c'erano questi pezzi, due pezzi erano un po' dark tipo questo, poi c'erano altri due pezzi che sembravano più AC/DC, no? Quindi poi, duetti. Sì, poi altri due addirittura sembravano quasi metal, cioè... Mm. Ci mancava proprio questo... una via definita, però. Sì, che ovviamente poi con il tempo, no, uno, noi eravamo giovanissimi, nel senso in un anno abbiamo fatto tutti questi pezzi. Quindi il problema maggiore era trovare proprio un nostro sound. E batterista. E batterista. Che non è un problema da poco. Ne abbiamo avuti tantissimi. 3 o 4 diversi. Sì. E chi li scrive i pezzi? Scrivi tutti te? Pezzi sì, li ho sempre scritti io. Però alla musica lavoravamo sempre insieme. Ah, ho capito. Sì, sì, sì. Ma a proposito di scrivere i pezzi, Marco, questa era la domanda che volevo farti. Eccola. Come nascono le tue canzoni? Cioè, come sono nasco? Degli spunti che prendi da una cosa che ti accade, delle storie che leggi, o un racconto di un amico, che ne so. All'inizio, cioè quando ho iniziato, gli inizi erano soprattutto le vite degli altri che mi ispiravano, ma forse perché in realtà la mia vita non era poi così movimentata e piena di fatti, ecco. E poi con il tempo, invece, da quando comunque mi sono trasferito, ho cambiato realtà totalmente. Sì, adesso mi lascio ispirare da altre cose, tipo magari vedo un film veramente mi ispira una canzone, oppure io giro sempre con il cellulare a portata di mano. Che registri subito? Subito, anche se, cioè, anche senza chitarra, se mi viene in mente una melodia, io sono pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la registro così, anche in inglese, magari non è corretto, tipo wherever you're... Però poi quando vado a casa ci metto e ho già la melodia che mi piace, la elaboro. Mi ispira moltissimo la ex camera di mia sorella. Nel senso, quando torno nelle Marche vado in camera di mia sorella, che adesso non vive più lì. Mi metto seduto in quella camera e lì veramente mi vengono quasi tutte le canzoni più belle, le ho scritte lì. Sì, questo sì. Ma nell'ex camera di tua sorella sentivate la musica una volta? Ma era in realtà io da piccolo abitavo dai miei nonni. Ah, dai tuoi nonni. Poi lei si è sposata e è andata a vivere dai miei nonni. Ah, okay. E io sono andato nell'altra casa, dove quella più recente, ecco. Però no, non lo so, forse è la posizione, perché ho questa finestra enorme alla mia destra, ho questo letto, che quei letti incassati, quelli che hanno intorno l'armadio, no? Boh, mi piace proprio... Ti ispira. Sì, mi ispira moltissimo quel posto. E sei prolifico come scrittore o scrivi una volta ogni tanto, quando ti capita? No, periodi. sono dei periodi in cui scrivo tanto e periodi in cui invece questo è un periodo ho bisogno di cambiare ogni tanto, nel senso che se sto sempre a Bologna nella mia stanza faccio sempre le stesse cose, poi mi addormento proprio. E ultimamente invece sono andato spesso a Milano, ho suonato alla prima del film America, e mentre facevo le prove ho tipo registrato 3 o 4 melodie nuove. Ah, però. Sì, perché era bellissimo, il teatro vuoto, tutto illuminato, c'ero solo io con la chitarra in mezzo a questo teatro lì. Ho preso il tiro. Hai suonato prima del film, mi dicevi? Sì, c'è stata la premiere al cinema e io ho suonato il pezzo I Don't Wanna Start prima della proiezione. Che partisse da proiezione. Bello, interessante, sì. Questo. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma hai suonato da solo o avevi da uno? Solo. Da solo, da solo. Così come suono per come voi. Hai suonato qua adesso, ok. Sì, sì, sì, sì, sì. Che meraviglia comunque. E poi hai suonato anche davanti al pubblico, quindi. Sì, sì, sì, sì. C'era un sacco di gente. Sì, c'erano quasi 900 persone. Però, era un grande cinema questo qui. Cioè cinema teatro, quindi è bello perché ha tutte una grande soddisfazione, quindi. Sì, sì, sì. C'era sì, anche sì. Regista chiaramente. C'erano tutti, c'era anche Bobby Kennedy, c'era Lele Gabellone che saluto, Marco Gualtieri il produttore, c'erano tutti. C'era anche la Parietti. Anche qui, presentava lei. È solo venuta a vedere il film. L'hai fatto l'autografo? No. No, niente troppo, ma mia sorella magari sarebbe voluta venire a questo evento. La prossima volta la invito, ma non poteva venire. Ma infatti ha scritto sulla mia pagina portami con te. Sì, sì. Mia sorella è cioè, nel senso, se vede la mia vita, no, e pensa lui non se la gode abbastanza. Cioè, nel senso, lei mi vede come quello che viaggia, che va alle prime dei film, conosce gli attori, no? Per lei sono cose cioè dice cavolo, vorrei anch'io essere qui con te. Cioè lei si divertirebbe molto di più secondo me, da un punto di vista anche proprio partecipare alla prima, queste cose qua. A me piace, cioè queste cose piacciono, però comunque sono molto riservato. Lei è più rock, più rock. Io dico che è più rock. Mi sembra. Magari ci sta ascoltando, quindi la salutiamo. Sì, ciao, ciao Chiara. Bene. Allora, io devo far ascoltare ancora la musica di Marco. Cosa ci fai sentire adesso? Cosa vi faccio sentire? Puoi andare anche oltre la scaletta dei 5 pezzi dell'album. Se c'hai qualcosa in mente, qualcosa ti piace proporre? Qualcosa di nuovo che hai? No, potrei fare il pezzo che ho registrato con Bluey degli Incognito. Ah, però devo provarlo. Sì. Provarlo, ma intanto. No, provarlo, devo accordarlo diversamente. Intanto parliamo io e te, Maurizio. Allora, sì. Che impressione ti sta facendo? Ah, ottima, impressione ottima, voce strabiliante, ha delle corde molto particolari, anche musicalmente è un ottimo cantautore, anche se non so se tu ami essere chiamato cantautore, mica tanto. Ma, cioè, dipende, nel senso, io mi sento un cantante autore. Non cantautore, attaccato forse. No, da... perché comunque io non posso togliere, cioè se... Quando penso a un cantautore non penso mai comunque anche a un interprete, no? Nel senso, spesso si dà molta importanza al cantautorato a quello che si scrive, no? Sì, sì. Cioè non tanto alla voce, perché tanti cantautori se li vai a sentire tipo Guccini non è un'ira di Dio musicale, vocalmente. Esatto, cioè a livello di canzoni io amo Guccini, però cioè, mi sono spiegato. Sì, sì, sì, chiaramente. Io sì, sono autore dei miei brani, però comunque punto anche sulla voce, vocalità. Comunque penso che sia il mio strumento migliore. Certo, no? Certo, mi piace proprio cantare, non è, cioè oltre a raccontare, mi piace cantare. Certo, certo. Bene. Ci siamo? Sì, quasi. Beh, ma sì, accorda in diretta, è diretta per quello, è assolutamente live, 22:40, quindi c'è poco da fare. Io resto cioè veramente molto colpito favorevolmente dalla scoperta di Lucio Dalla appunto con Marco Sbarbati. È stata una grandissima emozione trovarsi davanti a uno dei mostri sacri. Lo so, vedi, il discorso che diceva prima Stefano della maturità, essere invitato a casa, insomma, di vedere, di sentire le cose per strada, Lucio era un personaggio che amava vedere i musicisti che suonavano per strada. Lo stesso Guccini, la Osteria delle Dame, famosa. Davano tutti a... Perché Bologna aveva un clima un po' particolare una volta. Si suonava spesso, anche se non così spesso, ma si suonava per strada. E Dalla era uno che amava sentire i musicisti che suonavano in giro. E è una bella mentalità che si stava perdendo, forse si sta riacquistando. Forse Bologna era un'isola felice per questo, anche grazie a Lucio, chiaramente. Non so adesso se sia ancora così, io spero di sì. Che ne pensi tu, Stefano? Ma stava dicendo prima Marco che qualcosa un po' si sta muovendo, anche se forse è capillare, è di passaparola, ma alla fine basta anche un anziché andiamo al pub, andiamo in piazza, prendiamoci da bere qualcosa, andiamo in piazza a sentire cosa c'è stasera. Perché vi assicuro che nelle sere di primavera, estate o anche il primo autunno si sta bene fuori, si vedono le stelle, si riesce a parlare, c'è un clima disteso, c'è un clima popolare ed è bello. E quando si crea un po' questo indotto, questo passaparola, anche gli stessi autori o gli stessi autori di strada, cioè musicisti di strada, hanno voglia di dire ok, andiamoci, proviamo, sì. non ci sono solo i locali. Sono invogliati a farlo. Esatto, sì. Interessante. Mi ricordo serate bellissime con la piazza piena di ragazzi che magari ascoltavano me, a volte portavo anche dei musicisti, no? Mm-hmm. Ma delle serate proprio passate in Piazza Maggiore a mangiare cinese per terra, a bere la birrina, cioè comunque si creava una bellissima atmosfera. Che è la cosa più genuina, più semplice e più bella, più naturale, immediata. Più immediata. Nel senso, sì. Questi certi valori li abbiamo persi però, sinceramente. Sì, speriamo che ogni tanto qualcuno lì ce li faccia ritrovare, insomma. Ma nasce tutto ripetendo, sì, il discorso iniziale, dalla mentalità. Certo. Sì. Tutto e quello. Poi guardate, posso dirvi un'ultimissima, sì, cosa, dimmi. Che è un congregarsi in piazza non per né perdere tempo né creare confusione o disordine, perché c'è un aspetto di valore che è comunque la musica, che comunque è veicolare positivamente queste cose, quindi non sono luoghi dove ci si perde o luoghi dove c'è solo un ammasso di persone che stanno a fare confusione e perdere tempo. No, lì c'è un volersi congregare uniti dalla musica e dalla voglia di stare insieme, e quindi questo secondo me crea positività nella società, nella gente. E riguardo a Lucio Dalla, lui mi raccontò che trovò una band di archi, c'erano questi cinque ragazzi, non so, russi, polacchi, che suonavano sempre sotto la sua finestra, e lui li portò in tour. Però, cioè, scese un giorno, parlò con loro e li portò in tour. Cioè, questi suonavano proprio in strada, così, esattamente come... Cosa meravigliosa questa. Solo un genere, un personaggio come Dalla poteva fare una cosa simile. È difficile in Italia che succeda questo. Però Dalla aveva un sesto senso per queste cose, secondo me. Era bravo anche per quello. Basterebbe togliere un po' di puzza sotto il naso, lo so, ma essere più umano. Dipende dal carattere. Dalla aveva un carattere aperto, l'hanno detto tutti, l'hanno confermato tutti quanti chi l'ha conosciuto. Carattere totalmente aperto a tutte le esperienze, anche a suonare con un'orchestra d'archi, a suonare con te, a suonare con musicisti assolutamente sconosciuti, ma validi. Anche se uno è sconosciuto, ma è valido, quello è importante. Sei pronto? Sei pronto? My Day Off. Ok, scritta nella ex camera di mia sorella. Perfetto. Giorno libero, per tradurre, nel senso, ogni tanto abbiamo bisogno di prenderci una pausa. Scusate un attimo, devo controllare questo. Io ne approfitto affinché tu accordi, Marco. Voglio salutare un carissimo amico, veramente per me è stato un grande compagno d'avventura per molto tempo nelle frequenze di Euganea 2 a livello radiofonico, era il mio direttore tra l'altro, e ci fa sapere, insomma, che ci sta ascoltando e dice: accidenti, mi vengono i brividi come i vecchi tempi. Lui ha mollato un po' l'ambiente radiofonico per motivi suoi, però ci sta ascoltando. Adriano Businaro, ti saluto caramente, sei sempre nel mio cuore, così pure Lorietta, e spero veramente tanto, te lo dico con il cuore in mano, di rivedervi presto e di rivedere, anche di sentire i vecchi tempi, insomma, passati insieme in quell'emittente Euganea 2 che purtroppo non c'è più, ma insomma ci resta il ricordo di tante belle trasmissioni anche insieme. Ciao Adriano e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con Agostino, appunto con Maurizio, ma soprattutto con Marco Sbarbati che ci canta My Day Off. Vai. ho un problema con questa chitarra, scusatemi. C'è il bello della diretta, ma non riesci ad accordarla bene? Quando sei pronto me lo dici, tranquillamente. C'è il bello della diretta comunque. È bello, la diretta è bello anche per questo. Un musicista accorda, dipende anche dal tempo, da tante cose. Le corde spesso e volentieri fanno brutti scherzi. Fanno brutti scherzi, esattamente. Anche se fosse stata la Marti potrebbe fare brutti scherzi, chiaramente. Assolutamente, caro Marco, nessun problema. Comunque sono le 22:45, abbiamo ancora una quindicina, sì, di minuti e poi ci salutiamo e lasciamo tornare Marco alla sua Bologna. Dovrei cantare, cambiare canzone, non so da fare. Cambia canzone, cambia un'altra. Il bello della diretta. 22:46, Blu Radio Veneto, Agostino, Maurizio, Marco Sbarbati. Vi ricordo le nostre frequenze 88 700 94 600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora vi ricordo un grande appuntamento giovedì prossimo, di cui io e Maurizio siamo veramente fieri e onorati di regalarvelo, di proporvelo qui in diretta nelle nostre frequenze a Blu Radio Veneto. Daremo un grande omaggio di 2 ore, ve lo dico già, vi anticipo già, ad un'opera strepitosa per quanto riguarda la musica italiana, e cioè La Buona Novella di Fabrizio De André. Ce la presenteranno in diretta Dario Petucco e i suoi musicisti, e ne parleremo, svilupperemo anche dei temi, perché no, e se qualcuno volesse intervenire, dare il proprio parere anche telefonicamente, insomma non c'è nessun problema, siamo qui disponibilissimi. Ma insomma, quello che vogliamo fare è proprio fare questo grande omaggio a questa opera incredibile che Fabrizio De André ci regalò tanto tempo fa. Di che anno è, te la ricordi più o meno? Mi sta sfuggendo adesso. No, l'anno non me lo ricordo, ma saremo molto precisi giovedì santo, quindi la prossima settimana. In ogni caso, La Buona Novella è un album strepitoso, forse secondo il mio parere, personale parere, il miglior disco di Fabrizio De André. Qualcuno dice non al denaro, non all'amore del cielo, per me è La Buona Novella, perché è un disco rivoluzionario, perché ha parlato del più grande rivoluzionario della storia, che era Gesù Cristo, quindi assolutamente, e parlando dei Vangeli. È un testo veramente straordinario. È del 1970. Ecco, 1970, quindi il post-68, come lo diceva Fabrizio De André. Ma ne parleremo a tempo debito. Adesso parliamo con la voce e con la chitarra di Marco. La terza è quella buona. E la terza è quella buona. Può andare. Well, I don't care, I let it go. I found this room, I locked the door. The view is nice, I don't need a change. From here the sky looks like a pain. Oh, I lit a break from city life. I felt so tense in my disguise. Here to rest, to lose in my chain. I couldn't find a better place to play. Well, I don't care, I turn it off. I bought some wine for my day off. I fill my glass to celebrate. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. Well, I don't care. I turned it off. I bought some wine for my day off. I fill my glass to celebrate. L'ultima nota. Sì, bisogna sentire tutto, qua non si taglia niente, neppure la coda, come abbiamo già detto precedentemente. È un'altra cavalcata, questa è un'altra cavalcata, è una vera e propria cavalcata, secondo me. Cosa dici, Marco? Ti faccio bere l'acqua, sì, è molto importante. È una cavalcata vera e propria. Non dico una cavalcata elettrica, ma poteva essere benissimo una cavalcata elettrica, secondo me. Ma nella versione che ho registrato con Bluey è molto incognito, secondo me. Molto incognito. C'è la batteria, c'è questa chitarra un po' su. Un po' su. Sono straordinari, comunque. Sì, sì, sì, sì. Mi piace moltissimo la versione che ho registrato. Poi, va bene, nel senso, il sound... Cioè, ovvio che registrando un album bisogna trovare un, cioè, un sound, no? Certo, che più mi rappresenti. Quel sound lì non so quanto possa funzionare con le altre canzoni, però come il risultato finale secondo me è ottimo. Io spero sempre di averlo qui in studio, il leader, perché viene spesso a Rimini. No, va a Milano spesso, a Milano. Di solito fa sempre 3 o 4 date una dopo l'altra. Sì, sì, sì, spesso qua. È un grande produttore, essendo un grande produttore ha malimpasta per tutto, quindi beh, è un grande artista, un grande artista, sì, sì, un artista a tutto tondo. E abbiamo visto a Rimini, hanno fatto il concerto. Tra l'altro ho aperto il concerto perché l'anno dopo il vincitore dell'Inedited World Music Festival aveva questo onore, quindi però sì, penso una straordinaria. Credo sia una delle band, a parte più numerose, ma anche più brave ci sia in commercio, in circolazione quantomeno. I live sono assolutamente fantastici. Veramente. Sì, basta sentirli. Anche le cantanti. Senti. Hanno un groove. Grande, grande. Sono fa tendenza, sicuramente fa tendenza, questo voglio dire. Bene, siamo quasi in chiusura, Marco, adesso, però prima di salutarci io volevo che tu ricordassi magari a parte i prossimi eventi che già ci hai accennato, ma anche gli eventuali tuoi contatti, se qualcuno ti volesse chiamare, perché non far cantare, far suonare, e anche per chiedere il disco, che ne so, dove si può trovare. Ma il disco ancora bisogna... Non questo, anche l'EP, dico io. Ah no, quello ce l'ho io, nel senso, devi quando suono, sì, devono scrivere a me. Però ho molti contatti, nel senso che sono sia su Facebook, su Skype, Twitter, Google Plus, basta scrivere Marco Sbarbati su usando un motore di ricerca, tipo Google. Facendo un esempio, e mi trovate ovunque, quindi aggiungetemi sia sulla... Ho una fanpage su Facebook, ma anche una mia pagina comunque personale. Quindi cliccando mi piace su Facebook avrete tutte le mie informazioni, gli aggiornamenti, vi arriverà di tutto. Qui hai un po' di mi piace, cioè Jenny Rosini, Vito Facciola, Cristina Marozzi, Simone Marzoli, Alice Tassinato, Jacopo Ferranti, c'è anche un giapponese, Fumitoshi Imamura. Sì. Toshi è un nostro caro amico, Marco mio di Stefano, conosciuto in piazza. Ah, ecco, Marco Gualtieri, Crisula Barbata. Sì, Marco Gualtieri è il produttore del film. Che vi saluto, ciao Marco, anche Crisula, tutti quanti vorrei salutare perché lavorano, cioè sono persone che lavorano insieme a me e mi aiutano moltissimo. Cosa ti aspetti dal futuro, Marco? Grandi cose. No, cioè comunque penso che questa sia, cioè questa è la strada che ho scelto, quindi poi indipendentemente da quello che farò, magari un altro lavoro, però la musica è la cosa che faccio, che amo fare, e la porterò avanti comunque in qualsiasi, cioè in piazza andrò sempre, nei locali continuerò a suonare sempre, spero di fare questo album. Hai detto una bella cosa, in piazza andrò sempre, nei locali continuerò a suonare sempre. Sì, sì, sì, quindi sì, è una cosa, la volontà non si perde, continua, si allarga, si restringe, ma l'idea, sì, l'idea rimane quella, è un punto fisso, questo è importante secondo me. Sì, questo sì, non posso farne nemmeno, nel senso è una cosa che mi piace, quindi non la toglierei mai dai miei programmi. Cioè, nel tuo DNA c'è, sì, suonare. Sì, sì, sì, c'è. Assolutamente. E continuerai a farlo nella miglior maniera possibile. Ancora complimenti per quel pezzo che è stato selezionato per la colonna sonora, che adesso ci farai sentire live, giusto? Okay. I don't wanna start. Ok. Qualche considerazione finale, Maurizio? Abbiamo già detto tante cose su Marco e io posso dire una cosa solo: la voce, e la voce già dice tutto, è la carta d'identità sua. E quindi secondo me con una voce simile può fare quel che vuole, come si diceva una volta per certi cantanti, no, certi vocalist, meglio dire vocalist che non cantanti. Marco, noi ti ringraziamo intanto di aver accettato l'invito. Io ringrazio voi tantissimo. È stato un piacere rivederti. Magari ci rivediamo presto, con Spring. Nel senso, sì, anche con Spring magari. Magari sì, prima sì, di andare in Germania, così ci facciamo una serata di musica basker, via. Okay. Rimarremo sicuramente in contatto. Beh, quello senz'altro. Non occorre neanche che ce lo diciamo, perché tanto siamo spesso in contatto io e te. E grazie anche a Stefano, ovviamente, di aver accompagnato Marco qui. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata anche a te. Ci lasci con questa canzone, appunto, che fa parte della colonna sonora di America. Sì. Maurizio, noi ci vediamo giovedì per questa serata importantissima che abbiamo da un anno che prepariamo praticamente. Da Pasqua dell'anno scorso, da Pasqua dell'anno che scorso, era saltata l'anno sì, scorso. L'idea è stata quella e sicuramente sarà una serata molto molto importante. Poi con me ci sentiremo anche martedì e mercoledì. Bene. Allora, l'appuntamento con il sottoscritto e con Maurizio, come ricordava appunto poc'anzi, è alle 21 di giovedì prossimo, con questo tributo omaggio che facciamo grazie a Dario Petucco e i suoi musicisti, i suoi amici, alla buona novella di Fabrizio De André, assolutamente in diretta qui nei nostri studi per 2 ore. Avremo modo appunto di parlarne solo ed esclusivamente di questa grande, grandissima opera, appunto la parola penso sia la parola giusta, questo concept album che ha fatto Fabrizio De André nel 1970. Quindi l'appuntamento è un grande appuntamento, che poi tra l'altro ce ne saranno anche degli altri, ancora c'è anche Jesus Christ Superstar prossimamente qui in studio, già ve lo anticipo. Insomma, abbiamo un po' di tutto, stiamo programmando grandi cose per accontentare i nostri seguaci, come dire, i nostri ascoltatori, che sono sempre tantissimi e ci fanno sempre molti complimenti per quello che facciamo, e quindi li ringraziamo veramente di cuore. Continuate a seguirci, perché Blu Radio Veneto vi regalerà sempre grandi emozioni come quelle di questa sera con Marco Sbarbati. Ciao a tutti, buonanotte, buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto. Prima però c'è il saluto finale di Marco Sbarbati. Ciao a tutti, questa è Don't Wanna Start. Nothing's left here in this bed. No more wire to walk on, 'cause I'm afraid of it now. We've been told that giving up is not a good thing for us. But us is not me, it doesn't fit me, and I don't wanna start. I'm